Zolt. Fulminati in azienda. Allora Marco, come ogni inizio d'anno, anche tu, come tutti i manager della nostra azienda, dovrai consegnare ai collaboratori una scheda di valutazione e fare loro un colloquio. Sì, certo, facciamo la pagellina, come a scuola. E poi, scusami, ma io dovrei fare un colloquio con ciascun collaboratore. Ma di alcuni non mi ricordo neanche il nome, figurati un po'. Ma è fondamentale che tu faccia loro il colloquio per far capire alle persone come, dove migliorare durante il prossimo anno, capito, no? Ascolta, intanto che i subordinati incominciano a lavorare, che questa è la vera area di miglioramento. E poi cosa dovrei fare? Un caffè con uno, il pranzo con l'altro, a cena con il terzo, il salutino a casa mia. Questo sarebbe sicuramente una manifestazione di cura, di attenzione alla risorsa umana. Ascolta, risorsa umana. Tanto qui siamo in un'azienda e siamo qui per fare risultati e non siamo una onlus. E poi vado a leggere le cose che voi scrivete. Valutare l'assertività del soggetto ponendo una X nel quadrante di cui la media ponderata della prestazione professionale risulti coincidente con la mediana del comportamento elevata alla competenza a cui si riferisce. Cos'è che è scritto? Beh, è semplicissimo, quello è il primo di 10 parametri con cui compilare una scheda di valutazione per ciascuna delle persone che riportano a te. Ecco, ascolta, allora fallo tu che io ho da lavorare, per piacere. Dai, no. Poi io firmo tutto e gli consegno la scheda anche con una bella stretta di mano. Ma no, non è eticamente corretto. Guarda, se hai delle difficoltà ti posso organizzare un coaching con Donald Jump, no? Il nostro grandissimo coach internazionale che ti spiegherà. Ascolta, come scusa, si va. Tu lo sai chi sono io? Marco sul pezzo? Il direttore generale! Oh, Marco sul pezzo, direttore generale! Good morning, Donald! Good morning! È pronto per iniziare il nostro percorso di coaching personale, grazie al quale imparerai come valutare i tuoi collaboratori e spiegare loro aree di miglioramento! Yes, Donald, però facciamo presto perché con tutto questo lavoro sprecato per i collaboratori non ho mai avuto voglia di lavorare. Io ho letto tua scheda che tu hai già compilato sui tuoi collaboratori. Non capisco di chi è questo giudizio. È portato poco per questo lavoro e per di più non si applica abbastanza. È per tutti, cioè quelli che lavorano in azienda sono tutti uguali. Assolutamente wrong, sbagliato. Ogni collaboratore deve avere la sua valutazione personale. Ecco le regole fondamentali. Prima, far dire al collaboratore quali sono state le aree di comfort e in che cosa sente di dover migliorare. Okay. Poi tu dire al collaboratore cosa pensi delle sue performances. Sì, va bene, Donald, ma io che cosa gli dico? Cioè, gli dico che si doveva sforzare di più e che deve pedalare alla fine. Ma no, personalizing. Devi personalizzare il tuo giudizio ed essere sempre positivo e caldo nella tua valutazione. Anche se dici cosa negativa, devi dirla positiva. Ma se dico che deve pedalare, è positivo, che cioè... Devi pedalare, puoi esprimere al meglio il tuo potenziale. You can do it! Ah, vabbè, ma adesso capisco allora. Ti faccio un esempio, cioè se devo dire a centrifuga non concludi mai niente, gli posso dire ma com'è che non ti viene mai bene niente? Wrong! Sbagliato! Mai usare parole negativi come non niente mai problema. Se parlare positivo, ottenere atteggiamento positivo da tuoi collaboratori. Donald, ti dico la verità, grazie di cuore, domani devo incontrare la centrifuga e applicherò alla lettera il tuo verbo. Vai Marco, go, believe in yourself, tu ce la puoi fare. I believe, Donald, che ce la posso fare. I don't believe che ce la facciano loro. Allora centrifuga, ti ho chiamato per il colloquio di valutazione di inizio anno. Vabbè, allora famo come l'altra volta. Ho portato la scheda dell'anno scorso, scriviamo le solite cose, se mettiamo d'accordo per un adeguato, un 7, un 7 e mezzo, diciamo. E no centrifuga, stavolta facciamo le cose seriamente, perché come dice Donald Jump, I believe in you. Cominciamo con un'apertura. Dimmi tu quest'anno che cosa è andato bene e cosa è andato meno bene. Vabbè, mi sono fatto un mazzo con l'ernia iatale. Ho fatto quello che dovevo fare e anche di più, se per questo. Ti capisco, Centri, ti capisco. È che probabilmente ci sono dei periodi dell'anno un po' incasinati. Poi magari io mi sono spiegato male e a causa di questo ti ho creato un po' di stress. Ho girato come un criceto tutto l'anno. Come un criceto. Io, se sei d'accordo, me meriterei un aumento, un bonus. Io apro e tu mi chiedi il bonus. Giri come un criceto e mi chiedi il bonus. Allora facciamo così: le tue aree di miglioramento sono praterie sconfinate come la savana. E comunque il colloquio è finito. Questa è la scheda, firmata e controfirmata. Andare a lavorare e via. E come dice il grande Donald, you can do it. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t.